Benissimo, allora tocca a me dare il benvenuto, lo faccio con grande piacere, anche questa sera siamo in buona compagnia direi e abbiamo anche un ospite collegato via etere, diciamo alla vecchia maniera, che saluto. Ecco. Allora salutiamo intanto Federico Sant'Angelo che è collegato con noi da... Da Newcastle. Buonasera. Quindi superiamo tutti i confini questa sera. Lo ringrazio tantissimo della disponibilità. Grazie a voi. E con grande piacere vedo alle sue spalle greco-italiano. Beh, certo, sì. Grande, grazie. Grazie. Ecco. Non è Rocci, ma possiamo farci. Non è Rocci, il Rocci non sta su questi. Rocci, tra l'altro era un sacerdote, sì esatto, un tema Eisaei, come diceva Tucidide, un possesso per sempre. Benissimo, grazie a tutti, grazie di essere qui con noi, saluto Guido Margheri che è il presidente della sezione Ampi di Bolzano con cui abbiamo costruito questa serata, questa bella iniziativa, Hannes Obermeier che è sempre un grande suggeritore e promotore di iniziative con la Biblioteca Provinciale. La saluto la professoressa Paola Salvatori, una delle autrici, e appunto anche il professor Fabrizio Opedisano che è qui con noi. Come invece abbiamo l'ospite appunto da Newcastle, mi piace tantissimo questa cosa. è una prima assoluta, va bene. Dai, ne approfitto sempre per ringraziare tutti quanti perché l'occasione è ghiotta, parleremo dell'architettura, del segno del potere conferito dall'architettura. Bolzano è un laboratorio a cielo aperto in questo senso. L'occasione è anche il libro che viene presentato questa sera, appunto, Costruire la nuova Italia. Ecco. Di solito ne approfitto, ecco, di queste belle occasioni per raccontare un po' anche quello che viene fatto dalla biblioteca. Domani mattina alle 10:30 avremo un primo assaggio del libro Ironta, Pazzo per Victor di Clambaggio, che poi verrà presentato invece la prossima settimana, il 23 maggio alla sera. Però domani mattina c'è una lettura ad alta voce con il gruppo LAV, lettura ad alta voce. È un po' un impegno che ci siamo presi di ritornare alla lettura a voce alta perché insieme alla scrittura sono due abilità che stiamo perdendo. Ecco, e quindi la biblioteca insomma vuole recuperarle in qualche modo. Poi abbiamo martedì appunto 21 maggio la presentazione la sera con l'autore Clambaggio, ricordo il titolo Ironta Pazzi per Victor, saranno con noi Cornelia Dell'Eva e anche Patrizio Zindaco. E andando avanti velocissima vi racconto che il 28 di maggio alle 17:30 avremo invece il libro Il nemico di Mussolini nel centenario di Matteotti, saremo qui con gli autori, quindi con Stefano Carretti, Antonio Testini, Vincenzo Callì e di nuovo appunto l'Ampi Guido Margheri. E poi niente, insomma la biblioteca va avanti sempre col suo progetto di Localmente, che è questo gruppo di lettura di narrativa locale. Il prossimo appuntamento è il 12 giugno alle 17:00 e chi volesse partecipare deve leggere il libro di Matteo Righetto, Il sentiero selvatico, 12 giugno, ore 17 qui da noi, prendete il libro in prestito e poi venite e ne parliamo insieme. Premio Claudio Augusta per le tesi di laurea, di interesse locale, anche quest'anno, da 24 anni che lo facciamo, è sempre giovane questo premio, abbiamo sempre tanti studenti e studentesse che si candidano e quindi siamo molto contenti di continuare su questa strada. Grazie Mauro. Se conoscete qualcuno che sta studiando e che ha intenzione di fare una ricerca di interesse locale, mandatecelo. Ecco, questo è l'invito. Lo aiutiamo sia nell'ambito della costruzione della sua tesi, perché mettiamo a disposizione il materiale, sia poi per premiarlo e per ricevere il suo lavoro che ci interessa per documentare il nostro territorio in tutti i sensi. Basta, lascio la parola a Guido Margheri che ci aiuta a introdurre la serata e auguro una buona serata e speriamo di rivedervi nei prossimi appuntamenti. Grazie, grazie. Bene, grazie alla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, grazie alla dottoressa Trevisan, che ci travolge sempre con un mare di cultura, e questo vuol dire che è un bene. Questa iniziativa a cui abbiamo collaborato è importante perché si inserisce in un filone che noi abbiamo approfondito, non solo perché, come dire, Bolzano, rispetto ai contenuti che verranno illustrati stasera, è attraversata da tutte le contraddizioni che lì sono descritte, da tutta la cultura del fascismo, sia nella sua versione colonialista, sia nella sua versione razzista, sia nella sua versione di occupazione e riscrittura dello spazio pubblico. Bolzano è attraversata, si può dire visivamente, lo vediamo ancora oggi, ma lo è stata anche da un punto di vista storico, politico e culturale. Ma il motivo per cui noi abbiamo, grazie a Hannes Obermeier, voluto approfondire questo testo è in continuità con altre iniziative che abbiamo svolto, in particolare durante Bolzano Città della Memoria 2022. Noi abbiamo organizzato un primo incontro con Paolo Nicoloso, che peraltro ha contribuito anche a questo libro, sul suo testo abbastanza fondamentale su Marcello Piacentini. E il secondo libro che abbiamo presentato l'anno scorso, che è anche qui a disposizione in biblioteca, è il libro di Giulia Albanese e Lucia Ceci sulla monumentalistica fascista, che non a caso, tra l'altro, sulla copertina all'immagine del monumento alla vittoria. Consentitemi, e ringrazio tutte e tutti di essere presenti in questa giornata da Lupi, ma consentitemi a questo proposito di salutare in modo particolare la presenza del nostro sindaco Salghetti, che è stato protagonista di un impegno civile importante nel rivedere le conseguenze attuali e divisive di quella cultura. Dicevo che il libro, che avrete poi a disposizione là in fondo, è un volume molto interessante, molto bello anche, come sempre tra l'altro i libri di Viella, e trae origine da due convegni, e qui entra la Newcastle University, nel senso che questi due convegni si sono svolti, organizzati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e dalla Newcastle University, sono avvenuti nel 2021 e nel 2022. Il primo ha preso spunto dagli scavi ostiensi inizio Novecento, da Roma al mare, politica, archeologia, urbanistica 1900-1945, e appunto il secondo, costruire la nuova Italia, miti di Roma e del fascismo nel 2022. Quindi la ragione del perché questo libro è nato è perché, al di là di tutta una serie di richiami a testi conosciuti, a testi classici, a una serie di discussioni che sono state affrontate a lungo sul rapporto tra classicismo e ideologia del regime fascista, in realtà siamo di fronte a una nuova stagione storiografica, come viene ricordata nell'introduzione del libro, che ha affrontato attraverso alcuni nodi storici anche alcune conseguenze del fare i conti con questo tipo di problema. Pensate solo agli studi sul bimillenario di Augusto e quindi l'uso ideologico che ne viene fatto. Pensate a Cesare nella cultura teatrale fascista. Pensate al mito di Roma all'interno di determinate scelte diplomatiche. Pensate alla genesi e alla storia del saluto romano e alla sua permanenza in alcuni aspetti della cultura popolare. Pensate a quanto tutto il dibattito all'interno del regime fascista tra il razzismo biologico e il razzismo culturale, qui viene da evocare nomi importanti nella storia d'Italia e oserei dire nomi funesti, a cominciare da Giorgio Almirante, per non parlare di Julius Evola o altre cose del genere, quel dibattito lì ha radici profonde nella discussione sul mito di Roma. E il Mare Nostrum, quindi le aspirazioni imperialistiche fasciste, c'è un noto esponente politico locale che commemora sempre la data del 10 febbraio, che va giustamente sempre ricordata per quello che vuol dire, ricordando tutto e non solo una parte del ricordo, partendo dalla costituzione della provincia illirica durante l'impero romano per giustificare poi una sorta di continuità nell'italianità di quelle terre. Quindi permane questo modo di affrontare questo mito. E infine, appunto, l'architettura, il mito di Roma e l'occupazione dello spazio pubblico. Io ricordo che sia a Roma, ma non solo a Roma, ma anche in altre città, come per esempio la nostra, c'è stato un dibattito sulla reinvenzione o no di quegli spazi dove comunque questi simboli permangono, e c'è stata una discussione in cui si è svalorizzato l'elemento simbolico, si è detto ormai chi ci fa più caso, il CONI, lo Stadio Olimpico e tutte le altre cose, oppure in città da noi tutta la zona che era la zona imperiale intorno al monumento e tutto il resto. Ed invece a grattare si scopre che fare i conti con quei meccanismi consente di fare due discussioni importanti. Primo, vedere oggi come alcuni elementi ideologici identitari stiano ricostruendo pensieri autoritari, pensieri totalitari e pensieri anche pericolosamente antidemocratici in tutta una serie di movimenti estremisti a livello europeo. Ma come questi movimenti estremisti, pensate soltanto al tema della remigrazione agitato da Martin Sellner, si fondano su questi miti per offrire un'identità ideologica e etnica che sia escludente. Quindi c'è un elemento di attualità nel capire come questi meccanismi funzionano. Il secondo motivo è che fare i conti fino in fondo, in maniera seria, con quello che ha significato l'operazione ideologica e culturale del fascismo, senza sottovalutarla, senza rinunziare ai punti di vista fondamentali che ci derivano dalla Repubblica Democratica che siamo, ma senza neanche fare finta di dover saltare alcuni nodi storici, alcuni nodi culturali, è importante per finalmente fare i conti con quel passato. Ci sono riferimenti nel libro, alcuni saggi li ho trovati veramente molto belli, quello di Pietro Pinna, che a partire dal periodico Il Legionario, per esempio, riesce a costruire un ragionamento su quanto ci fosse nel mito e nella costruzione della cultura l'ambizione di costruire un pensiero universalistico. E badate che questa è un'operazione con la quale spesso noi, che viviamo in una condizione nella quale questi elementi culturali li viviamo quotidianamente, li incontriamo pietra per pietra, sono dei problemi. Poi ci sono tutta una serie di altri saggi molto interessanti, per esempio il saggio che fa vedere appunto la discussione su quanto ci fosse all'interno del fascismo una corrente culturale che intendeva il razzismo come una versione di superiorità culturale e con un esplicito richiamo alla romanità anziché a una superiorità razziale, biologica di carattere ariano. Saranno sconfitti culturalmente, ma peseranno poi. E poi altre cose di cui vi parleranno loro. Finisco dicendo una cosa. all'interno dell'introduzione, a un certo punto si cita Paolo Nicoloso, e che dice: il passaggio da un'architettura strumento di consenso a uno strumento di educazione comporta un cambiamento di atteggiamento nei confronti dello stile, e affronta attraverso questo concetto gli anni 30 e la centralità del mito romano. Per cui, come dire, affrontare questo dibattito non è solo un dibattito tra studiosi, non è un dibattito destinato soltanto a arricchire le biblioteche dei centri studi, ma in realtà si parla anche di noi. Grazie e buon lavoro. Grazie Guido. Ho l'onore di far da moderatore a questa presentazione, peraltro la prima di questo libro, che è una cosa che particolarmente ci fa piacere. Cioè, il libro assistete a una sorta di premiere. Innanzitutto un cordiale benvenuto a voi presenti, ma soprattutto anche a chi ci ascolta in rete. E siamo qui al podio in tre, ma siamo poi in quattro, sono i tre curatori assieme a me, e abbiamo pensato di fare così. Tanto affinché sappiate un attimino come si organizzerà questa serata, presenterò brevemente i tre curatori di questo volume di cui si parla, e facciamo una sorta di domanda e risposta, così in modo leggero voi ci presentate i ricchi contenuti, perché i contenuti sono ricchissimi ovviamente di questo volume, che è anche una somma di ricerche grazie all'apporto di vari studiosi e studiose che fanno parte del vostro progetto di ricerca più complessivo, nel quale peraltro è anche inserito Bolzano, perché noi ci siamo conosciuti grazie a, era nel periodo della pandemia, quando ci si conosceva solamente attraverso la rete, come adesso peraltro Federico ci assiste grazie a quella bella invenzione che è internet, dall'Inghilterra settentrionale. Ma ci siamo conosciuti appunto in un seminario proprio su questo tema, dove io ho avuto il piacere anche di poter parlare delle cose nostre, inserirlo in qualche modo in questo dibattito più ampio, che è un dibattito molto importante, no? Come ha detto già Guido, e innanzitutto anche grazie alla biblioteca Valeria Trevisani, suoi collaboratori Alessia Piccolini e chi ci assiste tecnicamente dietro le quinte, cioè è bello che questo dibattito, che è un dibattito sì storiografico, storico, ma anche un dibattito sul presente, e cioè non perché vuole essere in prima persona un dibattito sul presente, ma lo è per forza, no? Perché tocca temi che per vari motivi ci riguardano nel presente. Io brevemente, prima di dare subito la parola, abbiamo pensato a fare questa scaletta: Paola, poi Federico da Newcastle, poi Fabrizio con brevi breve statements, diciamo. E quello che magari poi voi mi correggete un attimino, ma quello che mi sembra il tocco originale di questo libro, che peraltro è in vendita, lo dico solo perché c'è anche la possibilità ovviamente di acquistarlo poi alla fine, l'approccio che questi studi perseguono mi sembra originale, soprattutto dal punto di vista che affrontano il tema non come generalmente si fa, da un punto di vista di, lo fanno ovviamente anche, no? Ma meramente da un punto di vista di storia politica o militare o sociale o anche diciamo filosofica, per così dire, o ideologica, cioè la decostruzione ovviamente dell'ideologia fascista, ma da un punto di vista meramente culturale, cioè il volume affronta la tematica sull'uso o sull'usurpazione, direi più che altro, di temi culturali da parte di un movimento autoritario prima e totalitario dopo, ovvero il fascismo. Cioè questo ne fa, cioè l'uso strumentale di un background culturale, in questo caso l'antichità, romana, e mi sembra non è l'unico libro in questo senso, ma è una sorta di sì, di quasi di enciclopedia ormai, no? Cioè, questo libro, perché racchiude i migliori studiosi e studiose in questa tematica, perché i saggi son molteplici, ovviamente. Il mito di Roma, e qui mi permetto, diciamo, un rimando, no, ovviamente, che è quasi scontato, ma funge ovviamente da mito motore, no, al fascismo, e il famoso concetto creato da Henri Lefebvre, no, il sociologo francese, cioè come usare un materiale, un capitale culturale per reinventare se stesso in una chiave. Cioè il tema che è stato già Augusto, il nuovo Augusto, no, Mussolini, eccetera, e la copertina lo rende in modo mirabile, né? Cioè questo progetto architettonico che era l'arco che era voluto, o era comunque un rendering, diciamo, fittizio del E42, cioè dell'esposizione universale a Roma, nel quartiere EU, a sud di Roma, mai ovviamente avvenuta poi, che per oggi rimane come grande zona architettonica con un'impronta perfettamente leggibile e materiale per infiniti studi. E appunto su questo vorrei subito magari iniziare con Paola Salvatori, per tracciare un breve profilo biografico, lei è contemporaneista, cioè ricercatrice presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, che non è né una scuola normale, è più che superiore, direi, dove ha condotto tantissimi studi proprio in queste tematiche, ma ha collaborato anche con la Giunta Centrale per gli Studi Storici e la Biblioteca Herziana, la Max Planck Institut für Kunstgeschichte di Firenze. Tra le sue pubblicazioni ricordo solamente Mussolini nella storia, dal socialismo al fascismo, il volume poi da lei curato Il fascismo e la storia, un altro volume che sta per essere completato, l'antimito di Roma dalla rivoluzione francese a oggi, cioè vedete che siamo proprio in questo solco del tematico, ma soprattutto è una monografia che sta per preparare, che potrebbe essere molto interessante anche per diciamo, la storia generale, sull'obelisco Dux di Roma, no? Cioè quel famoso manufatto tuttora non diciamo contestualizzato nel vicino alla sede del CONI, ovviamente, e sta collaborando anche con il grande storico che è Andrea Giardina, con uno studio dedicato alle politiche statuarie dell'Italia fascista con soggetto antico, appunto. La domanda che io vorrei fare come prima è come tu vedi lo stato della storiografia prima, sul mito, ovviamente, sull'uso abuso del mito romano, prima del vostro libro. Diciamo, abbiamo un salto di qualità in qualche modo adesso, o comunque questo volume ci consente di guardare oltre quanto non sapevamo prima. Allora, intanto vorrei ringraziare tutti i presenti, gli organizzatori di questa appunto prima presentazione di questo volume. Noi siamo molto felici, insomma, di aver organizzato questa prima presentazione qui a Bolzano, e tutti i colleghi che ci stanno seguendo. Dunque, non saremo ovviamente noi a parlare di un salto di qualità del nostro libro rispetto alla storiografia preesistente, perché insomma sarebbe una caduta di stile. Diciamo che questo libro nasce sulla scia di oramai quasi 50 anni di storiografia sul tema. Poco fa è stato evocato il rapporto con la politica reale, no? È stato detto proprio da te, come in realtà quello di cui parliamo oggi non è soltanto un argomento di storia culturale del fascismo, ma in realtà è un argomento che riguarda la politica attuale. E proprio in un'occasione politica un grande antichista e filologo che è Luciano Canfora ha inaugurato una stagione di studi dedicata al rapporto fra classicismo e totalitarismi, perché il primo studio che in Italia è stato fatto su questa relazione, non tanto sul mito di Roma quanto sul concetto di classicismo e concetti di totalitarismi, quindi sia fascismo sia nazismo, è stato compiuto da Luciano Canfora nel 1975 in occasione del 30° anniversario della liberazione. In quell'occasione la Regione Puglia finanziò una serie di ricerche sul fascismo e sul nazismo e Luciano Canfora, che tra l'altro proprio in quell'anno fondò la sua rivista Quaderni di Storia, di cui è tuttora direttore, dedicò i primi numeri dei Quaderni di Storia a questo rapporto fra i vari classicismi e i totalitarismi. Per diversi anni, dopo i lavori di Luciano Canfora, in realtà il tema non è stato affrontato. Non è stato affrontato, e la cosa, diciamo, che a noi è sembrata, che a noi oggi sembra più, insomma, io sono una storica del fascismo, la cosa che a me sembra, insomma, più sconcertante è che gli storici del fascismo non si sono occupati per circa 30 anni di questo tema. Se noi pensiamo che Renzo De Felice, nella sua monumentale biografia dedicata a Mussolini, che in realtà si può considerare una biografia del fascismo, non dedica pressoché nulla al mito di Roma, insomma dovremmo chiederci come mai questo tema dai contemporaneisti non è stato affrontato. Nel 2000 un altro antichista ha accelerato gli studi sul tema. Stiamo parlando di Andrea Giardina, che è stato appena nominato, che con un grande storico dell'età medievale, André Vaucher, ha pubblicato con La Terza e contemporaneamente con Gallimard in Francia un libro a quattro mani, in realtà sul mito di Roma dall'età medievale a Mussolini. Quel libro è intitolato Il mito di Roma da Carlo Magno a Mussolini e Giardina ha scritto gli ultimi due capitoli, il terzo capitolo dedicato al mito di Roma durante la Rivoluzione Francese e il quarto capitolo dedicato specificamente al mito di Roma durante il fascismo. Questo libro ha fatto, in realtà ha rappresentato un salto di qualità nella storiografia sul tema. Da quel momento in poi anche gli storici contemporaneisti si sono accorti che questo è un tema, se non forse uno dei temi della storia del fascismo. A seguire Emilio Gentile, che in realtà già si era occupato collateralmente del mito fascista della Romanità in quello splendido libro che è Il culto del littorio del 1994, molti storici dell'architettura, tra cui appunto Paolo Nicoloso, hanno iniziato a lavorare sull'architettura fascista anche da un punto di vista del mito di Roma. Vittorio Vidotto, che è scomparso da poco e che è stato uno dei più importanti storici della città di Roma, un storico proprio urbano, ha scritto diverse cose molto interessanti sulla storia urbanistica di Roma in relazione al mito di Roma. Questo libro che noi pubblichiamo, che abbiamo appena pubblicato, in realtà risente ovviamente di quella stagione storiografica. Noi abbiamo però voluto parlare di miti di Roma e non di mito di Roma, perché partendo da quella stagione storiografica abbiamo cercato di complicare il quadro e di recepire anche degli studi che sono apparsi negli ultimi anni, per esempio all'estero, di recepire degli studi che sono apparsi in Italia in occasione del centenario della Marcia su Roma. Ricordo il libro che è stato curato da Elvira Migliaro e Giovanni Santucci nel 2022, esatto, abbiamo lavorato entrambi, intitolato proprio Noi figli di Roma. Insomma, il tema del mito fascista della Romanità è entrato nella storiografia e ci sembra che abbia ancora molto da dire, insomma, che l'argomento non sia chiuso. Assolutamente sì, mi sembra che c'è molto interessante questa genealogia degli studi che tu tracci, no, dagli anni 70 in poi, che peraltro nella davvero bellissima introduzione al volume, molto densa, molto ricca di informazioni, ricostruisce a cura di tutti e tre, no, di Federico, Fabrizio e Paola, dei tre curatori, ricostruisce un attimino lo stato degli studi, ma anche come si sono evoluti, no? Cioè, questo è anche molto importante, perché così ti dà una sorta di orientamento dove siamo in qualche modo. La domanda che mi verrebbe da farti anche, come riesce il fascismo? Perché il nazionalsocialismo per esempio non ci riesce, no? Cioè, certamente si rifà una antichità germanica, ma è sempre un po' spuria, no? Non funziona perché lì... Mentre il fascismo italiano, cioè come... questo urfascismo, come lo chiamava poi, lo avrebbe chiamato poi Eco, no? Cioè come riesce a appropriarsi del mito di Roma? Perché il mito di Roma, diciamo, è anche un mito repubblicano, è anche un mito, non dico democratico parlamentare, perché ovviamente non lo è, ma ha degli elementi, il fascio litorio stesso, no? Cioè è il simbolo par excellence della Roma repubblicana, tant'è che lo troviamo... come simbolo nella Svizzera, che troviamo nel momento di Lincoln, no? Cioè, solo il fascismo è poi riuscito cioè come fa l'operazione del fascismo, come avviene? Cioè fare di un mito di una Roma repubblicana un mito di uno Stato totalitario alla fine, no? Cioè, concetto peraltro coniato dal fascismo stesso, no? Lo Stato totale, gentile e via, no? Il tramite, questo che dici tu, è ovviamente quello che potrebbe sembrare una clamorosa aporia, no? Perché il fascio littorio, i simboli proprio del fascismo, sono prima ancora dei simboli della Rivoluzione francese. Il tramite tra questa tradizione repubblicana, repubblicana democratica, anche cattolica, è Benito Mussolini. Benito Mussolini in realtà socialista, perché noi ci dimentichiamo sempre che quando parliamo di fascismo non parliamo necessariamente di mussolinismo. Il mito di Roma all'interno del fascismo ce l'ha portato Benito Mussolini. E Benito Mussolini è entrato in contatto con il mito di Roma attraverso Enrico Corradini, che è stato un grandissimo intellettuale, oltre che il principale esponente del nazionalismo italiano, il quale già nel 1902-1903 si preoccupava di trovare nell'antichità romana delle anticipazioni della politica, per esempio crispina. Non è vero quello che viene detto continuamente. Il primo a dire questa cosa è stato Renzo De Felice, cioè che il mito di Roma sia arrivato a Benito Mussolini attraverso Margherita Sarfatti. Questo non è vero. Ci sono moltissimi documenti che dimostrano che il contatto fra Mussolini e il mito di Roma avviene a partire dalla guerra di Libia, diciamo subito dopo la guerra di Libia e l'entrata in guerra, nella grande guerra dell'Italia, tramite Corradini. Se noi pensiamo che è del dicembre del 1922, quindi 2 mesi e mezzo dopo la marcia su Roma, che Mussolini decide di far coniare una moneta fascista con impresso il simbolo del fascio littorio, che non era ancora emblema di Stato, perché il simbolo del fascio littorio diventerà emblema di Stato soltanto nel 24. Noi capiamo come Benito Mussolini, appena diventato capo del governo, in uno Stato che non era ancora uno Stato totalitario, perché vi erano partiti di opposizione, sindacati, giornali pseudoliberi, nel dicembre del 22 avverte questa esigenza di imprimere visivamente un simbolo romano su quello che è l'oggetto di più facile diffusione, che è una moneta. Noi capiamo come in realtà il mito fascista della romanità sia un mito mussoliniano. Non so se ho risposto. No, perfetto, sei stato molto chiaro, no? Cioè alla fine è una Roma rivisitata in chiave imperiale, imperialista, no? Cioè sostanzialmente, che peraltro ci condiziona anche un po' la nostra visione oggi, no? di quell'esperienza straordinaria che fu la storia romana. A questo punto facciamo un grande salto nel nord dell'Inghilterra, non so quanti chilometri sono, 1500 da qui, non so se piove a Newcastle upon Tyne, qui piove a dirotto. Salutiamo Federico Sant'Angelo, che spero ci sente bene, ma mi sembra che ci sente. Lui è professore al Newcastle University, che è una straordinaria realtà universitaria. Ho avuto il piacere di esserci stato l'anno scorso, ma ci siamo visti o non visti perché c'era questa MSA con, non so, 2000 partecipanti, ma ho visto la straordinaria ricchezza dell'impianto universitario di Newcastle, che è anche città per i per i fan della dea Eupalla del Newcastle United, di personaggi come Alan Shearer e Kevin King, no? Tanto, comunque, questo più che altro per i juventini, immagino, fra di noi. Allora, Federico, uno dei tre curatori del volume, che ha studiato a Bologna e poi ha perfezionato gli studi all'University College di London, cioè l'UCL, è autore di come Paola, come Fabrizio, peraltro di tanti volumi, tra l'altro volume su Sulla, cioè Silla, Sulla, The Elites and the Empire, a study of Roman Policies in Italy and the Greek East. Ovviamente ci sono anche i suoi studi in lingua italiana, Roma Repubblicana, una storia in 40 vite, per esempio, a Carocci del 2019. Ha pubblicato anche il volume su Sulla, o su Silla, diciamo, è uscito in traduzione italiana. Ha pubblicato un volume su quel importante personaggio degli studi antichistici, Sir Ronald Syme, Approaching the Roman Revolution, Papers on Republican History, che è uscito a Oxford, ed è editore, fra l'altro, della History of Classical Scholarship, che è un famoso giornale. È fellow di diverse associazioni, ovviamente storiografiche, come la Royal Historical Society. Io, Federico, se posso, io ti porrei questa domanda, diciamo, forse tu ci puoi dare le linee generali di questo volume, perché ovviamente c'è una miriade di saggi, non so se sono 20 o un poco meno, ma comunque siamo quasi lì. Allora, le linee generali del volume, già in qualche modo delineato da Paola, cosa ci diresti se dovresti vendere questo prodotto, diciamo, a una fiera di Torino che è appena stata, no? Grazie, anzitutto davvero, grazie per aver reso possibile questa occasione lì a Bolzano e poi per aver reso possibile anche la mia presenza a distanza. È davvero un piacere, sarebbe stato un piacere molto più grande se ovviamente mi fosse stato possibile essere lì con voi, ma insomma così dal mio punto di vista è davvero molto molto meglio di nulla, quindi grazie. E, sì, come già è stato ricordato, questo volume nasce da due convegni, anzi da un convegno e da un seminario, che Paola, Fabrizio ed io organizzammo in piena pandemia. Non fu in realtà, come spesso è capitato, una nostra reazione appunto alla pandemia e al vuoto pneumatico che dominava per certi aspetti molte delle nostre giornate. In realtà l'idea era di qualche anno prima, e davvero era un'idea che ci era venuta così, parlandone molto informalmente. Fabrizio ed io, storici romani, lavoriamo su periodi diversi, ma insomma siamo chiaramente iscritti in quel campo disciplinare lì. E Paolo invece contemporaneista che poi sì, certo, ha frequentato tanto anche gli studi di storia antica, insomma la sua collaborazione con Andrea Giardina, con il SAET alla Scuola Normale è ormai insomma pluriennale e ha dato già esiti molto, molto significativi. Insomma, parlando appunto dei nostri interessi comuni intorno al tema così generale, al macro tema del rapporto fra Roma antica e fascismo, si è pensato a un certo punto di provare a riunire un po' di ricerche nuove. L'idea di partenza fu quella lì. E tutto sommato questo libro prosegue in quel solco lì. L'idea di partenza fu quella di riunire delle ricerche nuove, delle ricerche recenti o delle ricerche in corso sul problema del rapporto fra Roma antica e fascismo. E quindi cominciamo a ragionare appunto su una possibile call for papers, perché si partì da lì, insisto un po' su questa dimensione artigianale del progetto, perché secondo me poi ci, forse può anche aiutarci a capire poi che cosa c'è in questo libro e come questo libro sia effettivamente venuto. Insomma, si mise insieme una call for papers, quindi l'intento era davvero quello di vedere che cosa le nostre rispettive discipline, questo è un punto importante, noi veniamo da due discipline diverse, noi tre, avessero da proporre su questo tema. E la risposta che ottenemmo fu quantitativamente e qualitativamente davvero straordinaria. Non è, intendiamoci, consueto, io credo, che tre curatori non abbiano un loro capitolo o tre loro capitoli in una raccolta. Noi, come Hannes ha ricordato molto gentilmente, appunto abbiamo lavorato sull'introduzione, insomma abbiamo anche provato a pensarci abbastanza, insomma, a fondo su che cosa metterci. Ma il motivo per cui in realtà appunto non ci sono contributi nostri è che se insomma si fa una call for papers e poi si fanno dei convegni e dei seminari e poi insomma i contributi si riuniscono e arrivano, insomma c'è tanto da fare, c'è tanto su cui riflettere, c'è tanto da discutere, e nel nostro caso in particolare poi appunto c'erano da mettere insieme due tradizioni disciplinari diverse. Per mille aspetti legate, evidentemente, ma differenti. E poi c'è stata anche la bellissima sfida, bellissima, ma per niente facile, di mettere insieme diverse tradizioni storiografiche nazionali. Perché, come vedete, ci sono qui contributi di studiosi spagnoli, francesi, belgi, inglesi, le conclusioni di Josh Artos, collega statunitense ma che lavora in Canada, danno appunto la prova, la misura della dimensione internazionale del nostro progetto. Ma la dimensione internazionale del nostro progetto è stata in realtà il frutto in partenza di una risposta davvero, davvero straordinaria ad una call for papers che mettemmo in rete, insomma, mai anche qui si parlava di tutto ciò che la rete fa per le nostre ricerche, anche qui la capacità di raggiungere tantissima gente, tantissimi collaboratori potenziali è qualcosa di davvero importante e prezioso. Lo diamo per scontato, ma sino a qualche anno fa era tutto molto più complicato e molto più lento. Trovandoci di fronte a questa... Federico, posso farti una domanda diciamo intermedia, così per forse il tema che potrebbe risultare di particolare importanza è la vicinanza fra ricerca storica, fra la scienza diciamo di per sé, la scienza umanistica e il regime stesso. Mi sembra, cioè il livello di i livelli di collusione, tu come li vedi? Cioè gli antichisti di allora, come si rapportavano gli italianisti, cioè gli antichisti italiani degli anni 20, degli anni 30, primi anni 40, come si rapportavano a loro volta, cioè adesso in un quadro generale ovviamente, ma al regime? Cioè lo avvallavano, venivano solamente sfruttati, utilizzati, i loro studi inglobati, o si prestavano, cioè si collaboravano fattivamente alla costruzione di questa matrice culturale del fascismo? Arrivo proprio al punto che stavo per toccare in realtà, perché certamente se guardiamo il rapporto fra antichisti e regime, sì, c'è un rapporto di collaborazione proprio strutturale, sistemica e sistematica. Si tratta, io credo, di un discorso ben più ampio, che riguarda sostanzialmente tutta la cultura italiana, nelle sue varie espressioni, nelle sue varie manifestazioni. Perché il primo macro tema, diciamo, che si è posto ai nostri occhi, a partire da quella Call for Papers, prima ancora del rapporto fra antichisti o antichistica e fascismo, fu il nodo appunto dell'urbanistica, e in particolare il caso di studio di Ostia, e appunto poi di alcune nuove parti della città di Roma. E lì si vede appunto un rapporto organico fra architetti, urbanisti di prim'ordine e il regime. E lì appunto secondo me intende meglio tutto questo problema alla luce del concetto di coproduzione, cioè alla fine poi sostanzialmente alla luce dell'egemonia in senso gramsciano, che è un processo di coproduzione nel quale diversi centri di potere e di conoscenza interagiscono fra di loro. E questo vale per l'urbanistica, vale per l'architettura, che è un tema molto significativo, specialmente nella prima parte del libro, e poi vale evidentemente anche per l'antichistica, dove certamente si incontrano figure di uomini di potere davvero spregiudicati e davvero abili. Faccio due nomi: Carlo Galassi Paluzzi, animatore dell'istituto, fondatore e animatore dell'Istituto di Studi Romani, un esempio proprio di clerico fascista in purezza, e per altro aspetto Emanuele Ciace, grande antichista per molti aspetti, e però antichista fascistissimo. In entrambi i casi sì, parliamo di persone che sanno, come dire, sfruttare le preziose opportunità anche proprio di avanzamento personale che il regime offre loro, ma insomma è gente che ci crede, o che comunque insomma è fondamentalmente in linea con il progetto ideologico e politico del regime. E su questo aspetto qui, diciamo, l'ideologia e la sua diffusione, la sua propagazione, la seconda parte del volume, a partire da questi casi di studio, con alcuni antichisti, ma poi anche più in generale, su altri casi di studio, come quello già ricordato prima della rivista Il Legionario, costituisce un nucleo tematico molto, molto significativo. Quindi direi ci sono questi due fondamentali temi qui. Da una parte l'articolazione, la riconfigurazione degli spazi pubblici, degli spazi monumentali, anche degli spazi archeologici per un verso, e dall'altra la cultura del regime. Se mi permettete, insomma, c'è spesso, specialmente a destra in questi tempi, il tentativo di la rivendicazione del fatto che il fascismo avesse una cultura, insomma, che non sia tutto da buttare, proprio perché aveva una cultura. Sì, certamente esisteva una cultura fascista, sì, ma appunto era una cultura fascista e in quanto tale va studiata e compresa. Questo libro cerca di contribuire in parte all'approfondimento di questo tema. Grazie Federico, al momento rimani in studio, come si suol dire, halten Sie sich zu unserer Verfügung. Grazie della tua presenza. E a questo punto concluderei questa triade di interventi rivolgendomi a Fabrizio Oppedisano, il terzo di questo trio infernale che scombussola gli studi sul fascismo italiano, cioè rivisitando tutta la tematica in una chiave direi molto originale, e comunque che vedete già gli studiosi citati, cioè inserita in una chiave di ricerca internazionale, cioè la ricerca italiana ormai si è inserita in un alveo, in un network di ricercatori che sia lavorano fuori Italia come Federico, ma sia che sono di altre nazioni e che lavorano su questa tematica e che voi avete coinvolto. Fabrizio insegna anche lui storia romana alla Scuola Normale Superiore di Pisa e dirige con Andrea Giardina, già citato, la collana Saggi di Storia Antica, così vedete la sua formazione anche diciamo da antichista, però con uno sguardo rivolto sempre anche al presente. Lui si occupa di storia politica e istituzionale dell'Occidente tardo antico in prima battuta e anche diciamo della transizione di questo mondo nell'Europa medievale, per esempio pubblicando studi importantissimi sugli ostrogotici, no? Cioè il volume Between Ostrogothic and Carolingian Italy, sull'eredità proprio dei Goti, uno di questi popoli migranti, diciamo, Italia del IX secolo, Giuseppe Albertoni, che salutiamo, conoscerà molto bene la qualità di questi studi, che è un suo collega peraltro, o un altro sul titolo Justinian's Legacy, cioè Giustiniano, The Last War of Roman Italy, proprio sulle fette della guerra gotica, quella devastante guerra gotica, sulle strutture dell'Italia romana. Io ti chiederei, diciamo, ovviamente una tua valutazione complessiva sull'operazione che avete fatto e forse delle riflessioni tue su questo progetto editoriale, che le particolari ambizioni, anche, no, gli scopi che ti sembra di aver in qualche modo perseguito e raggiunto, è un punto di arrivo o un punto di partenza più che altro, o entrambe. Grazie. Le cose. Grazie Hannes, e soprattutto grazie a questa, appunto, a questo luogo che ospita questa prima presentazione. E è importante che questa presentazione sia fatta, questo imprimatur, sia qui, sia per, appunto, i significati di questo luogo, cioè di Bolzano, ma sia anche per, in qualche modo, la fuoriuscita che per noi è auspicabile di questo libro e delle nostre ricerche al di fuori di un contesto prettamente accademico. Questo secondo me è, per noi è molto importante, cioè in qualche modo spostare il baricentro del dialogo al di fuori dell'università. E in qualche modo questo è un po' anche uno degli obiettivi, insomma, delle ambizioni e delle aspirazioni di questo libro. Cioè noi abbiamo cercato di mettere insieme, come diceva Federico, dei saggi che avessero un peso scientifico assolutamente significativo e che fossero in qualche modo rispondessero a dei criteri, dei parametri di originalità e di, appunto, significato storico rilevante, che fossero aggiornati in merito al dibattito, però abbiamo cercato anche di costruire un libro che fosse possibilmente avesse un respiro culturale un pochino più ampio rispetto a molti studi che siamo abituati a condurre noi, insomma, come professori universitari. Questo un po' è una caratteristica, diciamo, di questo volume, o almeno speriamo che sia una caratteristica di questo volume, cioè che sia un volume leggibile anche da parte di un pubblico colto, ma non un pubblico di specialisti necessariamente. E questo perché i temi che abbiamo affrontato, cioè appunto il rapporto che è un rapporto fondamentalmente di storia culturale tra i miti di Roma e di storia culturale in senso lato, tra i miti di Roma e fascismo, noi pensiamo che sia un tema che, senza appunto cedere ad attualizzazioni banali, parli anche con tutta una serie di grandi snodi della nostra contemporaneità. E in fondo il peso preponderante, o quantomeno comunque, insomma, il peso significativo che in questo libro occupano i saggi dedicati a arti visive, architettura, urbanistica, cultura materiale in generale, quindi archeologia, in fondo risponde a questa esigenza. Anche questa è una peculiarità del libro, cioè aver valorizzato, appunto, sulla base di una consapevolezza di quali siano un po' gli orientamenti della storiografia attuale, aver valorizzato questo tipo di approccio, cioè un approccio che intende in qualche modo rendere centrale il valore ideologico, politico dei luoghi, degli spazi, di ciò che si vede, di ciò che si vive quotidianamente nelle proprie città. E questo perché naturalmente ha una, diciamo così, da un punto di vista dell'impatto sulle masse, ha un effetto dirompente, molto più di quanto non possa averlo, altri canali di comunicazione che possono essere adottati da un regime, no? Quindi naturalmente c'è molta letteratura in cui si coglie la ripresa del mito di Roma da parte del fascismo. Ci sono scritti, ci sono anche orientati su vari registri formali, che però non riescono mai ad avere quell'impatto, quella diffusione, quella, diciamo così, pervasività che ha un monumento, che ha una riorganizzazione di uno spazio urbano. E proprio appunto in un saggio di Hannes nell'ultimo libro di curato da Elvira Migliario sul, appunto sulla, su temi affini a questi per certi versi, cioè sul rapporto tra romanità e fascismo, si insiste molto su questo aspetto, cioè sul, questa è una cosa molto bella, cioè sul fatto che la gestione degli spazi urbani è molto orientante da un punto di vista ideologico e soprattutto è molto orientante per plasmare le coscienze dei cittadini, per massificare i cittadini. Quindi in qualche modo l'architettura, le politiche urbanistiche e anche l'archeologia hanno un ruolo fondamentale in questa grande operazione ideologica condotta dal fascismo, e questo è un aspetto che noi abbiamo voluto valorizzare più di altri. Forse è stato Andrea Giardina il primo in qualche modo a mettere l'accento sul fatto che più che gli storici antichisti erano gli archeologi ad aver in qualche modo contribuito alla, diciamo così, alla diffusione anche all'interno del regime del mito di Roma, proprio perché la cultura materiale ha una capacità di scuotere le coscienze che la letteratura o gli scritti non hanno. Quindi diciamo questo è un aspetto molto importante, ecco. Ecco, spengo, accendo, no? Per risparmiare la batteria, magari non si sa mai. Se no anche Federico non ci sente, no? Adesso ci senti, vero? Tu ci senti bene? Ottimo. Fabrizio, tu dicevi appunto c'è questo uso o questo apporto diciamo dell'archeologia per esempio in questo caso mi sembra c'è il bel concetto di Penelope Goodman che parla di soft power, cioè soft power che viene acquisito dal regime per, ovviamente per uso legittimatorio, no? Cioè per imbeverarsi in qualche modo di questa fonte inesorabile di legittimazione che può offrire un esperimento imperiale da altri tempi. Ma la domanda che mi verrebbe anche cioè tu come vedi adesso da un decennio e passa siamo a piene mani dentro nella categoria, negli studi, nella nuova matrice del postcoloniale, no? Cioè il tema del colonialismo, della rivisitazione dell'esperienza neocoloniale, chiamiamolo così, del fascismo, si presta a una lettura postcoloniale? E se si presta, in che modo si potrebbe prestare? Anche sì, grazie, questo è un tema enorme ed è un tema particolarmente importante, cioè in qualche modo è uscito qualche tempo fa una recensione di una studiosa italiana che si chiama Elena Giusti, è un libro di Sergio Brillante, uscito recentemente sul colonialismo italiano di fine 800, quindi sul primo colonialismo italiano, un libro uscito per Il Mulino nel 2023, mi pare una cosa del genere, recentemente, e lei appunto questa studiosa che è una latinista, in qualche modo una latinista che lavora in Inghilterra, lamentava il fatto che non ci sia stato in Italia un vero, diciamo così, un vero dibattito storiografico sul complesso articolato sul colonialismo italiano e soprattutto sul ruolo del classicismo all'interno del colonialismo italiano. Ecco, questo diciamo è un aspetto importante. In realtà negli ultimi anni qualcosa si è fatto, c'è un libro bello di cui abbiamo parlato insieme a Paola di Carmen Belmonte sul primo colonialismo, però indubbiamente questa è una pagina fondamentale naturalmente della storia d'Italia, e tanto più in relazione al mito di Roma, perché chiaramente le politiche coloniali italiane attivano una maggiore intensificazione dell'analogia storica con il passato romano, perché nel momento in cui l'Italia in qualche modo si proclama impero rivendicando dei territori che, seppure in modo impreciso, ma queste suggestioni non hanno bisogno di precisione, Quindi diciamo, non è importante che il Corno d'Africa, i romani non fossero mai arrivati. L'Italia era nuovamente arrivata in Africa e quindi questo attiva in qualche modo un parallelismo forte con l'imperialismo romano che aveva conquistato, appunto, aveva ridotto, secondo appunto questa ideologia del regime, aveva ridotto il Mar Mediterraneo, Mare Nostrum, conquistando anche appunto la quarta sponda, quindi l'Africa romana. Ecco, questo diciamo è un momento in cui si intensifica fortemente la retorica della romanità. È curioso che questo avvenga negli anni 30, quindi nella seconda metà degli anni 30, anche perché, questo Paolo l'ha detto tante volte, ci sono tutta una serie di episodi fortunati, cioè ci sono delle ricorrenze che favoriscono fortemente questa retorica dell'analogia, cioè ci sono i millenari dell'età augustea, no? E quindi in qualche modo il regime è portato, è incoraggiato a favorire tutta questa opera di analogia, di attualizzazione del passato romano nel presente. Al tempo stesso però, subito dopo il 38, questa retorica della romanità comincia anche a entrare in crisi, perché con le leggi razziali diventa tutto molto più difficile. E una delle testimonianze più belle della difficoltà da parte della cultura fascista di continuare a elaborare il mito della romanità alla fine degli anni 30 è un articolo che Paolo conosce bene di Giorgio Almirante sulla difesa della razza, sull'imperatore Caracalla, che è l'imperatore che secondo una vulgata storiografica tutto sommato ancora abbastanza valida nel 212 d.C. avrebbe concesso la cittadinanza a tutti i provinciali. Quindi in qualche modo c'è una visione, diciamo così, razzista da parte del regime che si scontra con una cultura politica romana che era completamente diversa, era non per bontà ma per interesse politico, era inclusiva, e quindi questo in qualche modo forse accelera anche la fine di questo meccanismo che era cominciato tanti anni prima dell'analogia storica e che il colonialismo italiano aveva in qualche modo permesso di accentuare e di valorizzare fortemente. Grazie Fabrizio. Io direi che magari cercando di fare adesso una carrellata finale di tutti e tre per poter poi anche aprire un attimino al pubblico, magari ci sono delle curiosità. Abbiamo l'occasione appunto di parlare con tre studiosi di grido, no, cioè, scusa, è così che non gridano, però ma il loro tema grida, e il tema appunto che grida, io direi, uscendo un attimino da questa prospettiva che ovviamente qui non è neanche dominante ma è una prospettiva centrale, quello degli studi antichisti, ma entrando proprio in una prospettiva del presente, mi sembra che su questo c'è una vostra attenzione particolare. Ho visto per esempio il saggio del già citato Joshua Arthurs, no, che alcuni saggi sono in inglese, How Often Do You Think of the Roman Empire? Lui proprio tira in ballo in modo diretto l'uso e l'abuso politico delle tematiche romane da movimenti politici neofascisti. Cioè, lui cita Casa Pound tanto per fare, cioè, la tartaruga, no? Questi elementi. Allora io vi chiederei, se magari sempre in questa successione che abbiamo avuto prima, no? Prima Paola, poi Federico, poi Fabrizio, in una valutazione finale vostra, come vedete questa contemporaneità imbevuta comunque, dove ci sono questi usi tuttora strumentali, cioè un ritorno di un uso strumentale dell'antichità, in che modo? Ovviamente sappiamo tutti che talvolta è banalissima, però c'è. E come ci difendiamo rispetto a queste strumentalizzazioni attuali? Prima di dare il microfono a Paola, no, c'è una cosa interessante, proprio grazie al saggio di Arthurs, penso che noi siamo forse l'unico libro di storia che ha Paolo Di Cagno nell'indice analitico, quindi è vero quello che dici tu, c'è una prospettiva di attualità, insomma. Allora, questa è una domanda un po' complicata, perché quando tu hai chiuso... scusate, sì, non urlo, vi grido ma non grido. Quando un attimo fa hai chiesto come ci possiamo difendere da questo abuso della storia romana, mi è venuto da rispondere con l'ignoranza, perché paradossalmente, però è una cosa che sto pensando ora, quindi potrei anche contraddirmi mentre la dico, ho l'impressione che... l'abuso non solo della storia romana, in realtà, del passato che molti movimenti neofascisti fanno oggi, è un abuso su un piano molto meno colto rispetto all'uso che fu fatto durante il regime fascista. Perché durante il regime fascista questo uso del mito di Roma, così come anche per esempio l'uso del mito risorgimentale, perché non dimentichiamoci che durante il regime fascista era anche un pullulare di statue di Garibaldi e Mazzini, si esplicitava sempre, come ha detto prima Fabrizio, su un duplice piano, un piano della propaganda popolare e un piano degli studi colti universitari, gli scavi archeologici, i piani regolatori, i piani urbanistici, c'è un bellissimo saggio per esempio su come i latinisti veicolano il mito fascista della romanità. Oggi tutto questo non c'è. Perché anche il piano diciamo della propaganda popolare è un piano molto più etereo, molto più volgarizzato, dato soprattutto dai social network, ma a mio giudizio molto meno colto. E questo quindi probabilmente in qualche modo tutela il passato da un uso strumentale. Dopodiché è innegabile che c'è un uso strumentale del passato. Per quanto riguarda i gruppi neofascisti, si è creato questo cortocircuito inevitabile per cui i gruppi neofascisti utilizzano il mito fascista della romanità, quindi è un mito di Roma reinventato dal fascismo, quindi è un metamito, potremmo dire così. Per cui per esempio si fa ricorso al saluto romano, che non è un saluto romano ma è un saluto fascista, al passo romano, che non è un passo romano ma è un passo fascista, ai gagliardetti romani, che non sono gagliardetti romani ma gagliardetti fascisti. Per cui secondo me è molto complicato oggi parlare di un mito neofascista della romanità. È fatto più che altro di simboli più che di sostanza. Cioè abbiamo tanti strati che si sovrappongono e che rendono anche difficile il quadro. A questo punto di nuovo diretta nel nord dell'Inghilterra. Federico. Sì, sono davvero d'accordo con quanto Paola ha detto e sul fatto che l'ignoranza in questo caso possa essere per molti aspetti una risorsa. Due cose proprio al volo. Questo nostro libro secondo me mostra come i miti di Roma siano parte del problema più ampio, del tema più ampio della costruzione dell'identità nazionale italiana. E quindi per molti aspetti liberarsi di Roma, quantomeno in Italia, anche nel 2024, e liberarsi degli abusi della storia romana è per molti aspetti impossibile. E dunque sì, per certi aspetti appunto ci si può liberare dagli abusi più crassi e più volgari con una certa dose di ignoranza, come dice Paola, oppure studiando analiticamente certi aspetti della storia romana, o per esempio proponendo un'idea di storia romana che non sia concentrata soltanto su quanto accade negli ambiti dell'elite politica o dell'elite sociale, sia più aperta, più inclusiva, e che non guardi per esempio soltanto ai romani, ma anche a coloro che da Roma furono sconfitti. Peraltro poi, insomma, secondo punto, molto rapido, ci sono certamente gli usi e gli abusi di Roma antica a destra e a destra estrema, però poi in realtà le cose sono complicate, cioè se un giornalista di solidissima cultura democratica scrive un libro, peraltro a quanto mi dicono ha venduto molto bene, e che verrà tradotto in parecchie lingue straniere, a quanto mi dico. E il libro è intitolato Roma, l'impero infinito, quando eravamo i padroni del mondo, abbiamo un problema molto più generale che purtroppo non si esaurisce con Casa Pound e dintorni. Ecco, Fabrizio, a te la una conclusione, diciamo, di questo è verissimo. O delle considerazioni. Cioè, senza adesso scivolare sullo psicologismo, però è evidente che non è un problema. È un problema che si esaspera nei movimenti di destra per tutta una serie di ragioni, appunto connesse ad una, diciamo così, ad una rottura col fascismo che in Italia non è mai avvenuta in modo netto, in modo definitivo, con delle responsabilità gravi da parte della politica italiana, anche non fascista, ma insomma questo è un discorso complessissimo. Però al di là di questo c'è un'immagine della romanità che anche grazie o per colpa del cinema americano è diventata pervasiva e quindi in qualche modo si è inculcata ad un livello di appunto cultura generale che è molto difficile da eradicare ed è molto difficile da eradicare perché in qualche modo per certi versi affranca da un sentimento che accompagna un po' tutti gli italiani che non è mai cessato, che non si è mai risolto ed è quel sentimento appunto che poi era connaturato al nazionalismo italiano di inferiorità nei confronti delle altre nazioni occidentali e quindi in qualche modo il mondo romano rappresenta sempre questo orizzonte di grandezza che ci permette di dire che appunto un tempo noi eravamo più forti degli altri, insomma questo un po' è la tragedia di questa tematica. Allora si tratta comunque di un progetto egemoniale anche, no? Cioè di egemonia del discorso pubblico e di come conquistare uno spazio pubblico anche da parte di questi gruppi che in qualche modo, cioè giustamente tu dicevi, mi è piaciuto molto, no, Paola, bisogna anche ignorare certi usi, diciamo, perché non sono filologicamente corretti anche ovviamente, anzi lo sono straordinariamente non corretti, ma c'è comunque a prescindere dalla massa critica delle nozioni che abbiamo, ovviamente c'è la lotta all'interno di un agone politico che cerca in qualche modo di conquistarsi uno spazio attraverso l'uso di un vocabolario che appunto anche tu dicevi, ma lo diceva anche Federico, già ripassato varie volte, già ci perviene in modo risemantizzato e viene risemantizzato. Pertanto, magari davvero ultima domanda su questo, magari se Fabrizio vuoi concludere tu su questo. Comunque il problema rimane, no? Il problema rimane e ce lo troviamo ogni giorno, basta aprire il giornale per capire come il tema, diciamo, accademico lo sia sempre anche un tema, diciamo, del presente politico. Sì, direi assolutamente di sì. E, mi veniva in mente prima, appunto, in questi processi di risemantizzazione più o meno inventate, ma un po' per ribadire quello che stavo dicendo prima, cioè che in realtà c'è un'oscillazione tra una, appunto, un uso più politicizzato, soprattutto da parte dei movimenti di destra, e un uso apparentemente più innocuo invece a livello di cultura generale. E mi veniva in mente, l'avevo un po' studiata in passato, la fortuna un po' trasversale della figura del gladiatore. Cioè, questo è interessante perché c'era in alcune pagine di Forza Nuova, mi pare qualche anno fa, c'era una definizione molto lunga del saluto gladiatorio che loro consideravano in qualche modo come uno strumento fondamentale di riconoscimento reciproco, no? Quindi loro, i componenti di queste forze politiche, si salutano con il saluto gladiatorio, che è molto diverso dal saluto romano, perché invece è un saluto che prevede un contatto fisico, perché sono le braccia che si giungono più o meno a metà, e c'è tutta una mistica, perché in questo modo si trasfonde la forza del gladiatore, eccetera, eccetera, eccetera. E, però appunto in realtà il mito positivo del gladiatore in qualche modo è stato pervasivo, no? Nella cinematografia americana, al di là del gladiatore che è un film bellissimo, però ci sono state tante risemantizzazioni della gladiatura, anche un po' truce, no? Sì, un po' truce, ma insomma è un film molto interessante per tanti aspetti, però appunto questa immagine del gladiatore che combatte valorosamente in un'arena, anche in tanti film distopici americani, Mad Max, Rollerball, insomma ce ne sono tanti degli anni 70 e 80, ha veramente pervaso l'immaginario pubblico collettivo, quindi è veramente un tema complesso, perché si è radicato in modo molto diffuso all'interno della cultura, anche al di fuori appunto di queste formazioni che ne fanno un uso più politicizzato. E forse qui c'è anche, ma sarebbe tema di un libro a parte, proprio l'uso della mascolinità, cioè la reinvenzione di una mascolinità anche per certi versi tossica, no? che questi film ripropongono. Forse non Black Panther, non so se lo conoscete, della Marvel, è straordinario perché è proprio una rivisitazione di questi temi, però in chiave davvero postcoloniale. Black Panther, no, c'è il seguito straordinario, però anche da una prospettiva, diciamo, di liberazione. Intanto io ringrazio i nostri tre curatori e la curatrice per questa bellissima presentazione. E mi permette, vediamo se ci sono delle curiosità che il pubblico, vedo già una mano alzata, dobbiamo in qualche modo cercare di usare il microfono. Alessia, se grazie, perché così ci seguono sia in remoto sia ovviamente Federico da Newcastle. Grazie. Prima avete parlato di antichisti, però ma che antichisti sono questi che decidono di enfatizzare un periodo storico come quello dell'Impero Romano a scapito poi di altri periodi storici come per esempio il Medioevo, nel senso che nell'architettura, per esempio quello che è successo a Roma e che stava per succedere anche a Bolzano, fortunatamente non è successo, è stato quello di sovrapporre un'architettura ad un'altra, perché aver spazzato via interi quartieri che invece che essere riqualificati, risanati, sono stati spazzati via per far posto a lunghe strade eccetera eccetera, venendo meno anche all'effetto che voleva dare il Bernini al colonnato e tutte queste cose qua, cioè mi chiedo che come mai questi antichisti si sono concentrati su quel periodo storico. Non lo so, Federico, so... No, ma sì. Sì, vai, prego. Va bene, ok. Buonasera. Si tratta per l'appunto di antichisti, quindi di persone che professionalmente studiano Grecia, la Grecia o Roma, o comunque il mondo greco o il mondo romano. E quindi da un certo punto di vista è... Non sorprende, diciamo, non deve sorprendere che si occupassero di questi temi e che vedessero, individuassero in Roma, alcuni in Roma repubblicana, alcuni in Roma imperiale, alcuni in Roma più generale, un modello anche per il presente. D'altra parte qui, insomma, c'è il tema dello statuto, per certi aspetti privilegiato, sono proprio principe della cultura classica, dell'educazione classica tra fine Ottocento e primo Novecento. E c'è, credo, in alcuni ambienti, non tutti, intendiamoci, della storiografia italiana e non solo, un certo pregiudizio, io credo, nei confronti del Medioevo e delle forme politiche di quel periodo. Sì, sì. Sì, aggiungo una cosa velocissima. Il mito fascista della romanità è il mito preminente, il mito storico preminente. Però, come ho detto poco fa, non è l'unico mito storico. Abbiamo appunto il mito del Risorgimento, ma abbiamo anche un uso strumentale di altri periodi storici, per esempio della storia greca. vista come deficitaria rispetto alla storia romana, ma anche della storia medievale. Non dimentichiamoci che il medievalismo, che è un fenomeno culturale che viene studiato moltissimo in questo periodo, Tommaso Di Carpegna Falconieri ha scritto delle cose molto belle sul medievalismo. Il medievalismo è un po' quello che è il mito fascista della romanità, cioè è un'invenzione di un certo tipo di medioevo. Il medievalismo esplode con il fascismo, perché la gran parte delle feste popolari, i pali, feste in costume, che a noi, a me personalmente no, ma a tante persone oggi entusiasmano moltissimo, sono state inventate durante il regime fascista. Il Palio di Siena è stato codificato, così come lo vediamo noi oggi, due volte l'anno, è stato codificato durante il periodo fascista. Quindi una strumentalizzazione della storia, a prescindere che fosse una storia romana, la storia antica, una storia più recente, è tipica del regime fascista, così come d'altro canto è tipica, va detto, di tutti i regimi, sia regimi antidemocratici sia regimi democratici, perché questo è un grande tema che andrebbe affrontato, cioè come i regimi politici utilizzano il passato in chiave strumentale. In questo caso il regime fascista fa esplodere il mito di Roma, perché è anche un mito nazionale. Roma capitale viene eletta capitale anche in nome dei fasti antichi. Una cosa che volevo aggiungere, questa è una cosa molto interessante, da una prospettiva inversa, è l'atteggiamento da parte di questi, cioè quello che noi dobbiamo immaginare è che in qualche modo questi professori universitari improvvisamente si vedono la possibilità di una ribalta pubblica che è assolutamente impensabile per insomma, la dimensione sociale a cui erano abituati a vivere. Quindi in qualche modo c'è un meccanismo anche di narcisismo fortissimo. Oggi Paolo ed io siamo stati al MART a vedere questa mostra su arte e fascismo, e c'è una lettera, tra i documenti che sono esposti, c'è una lettera di De Pero a Mussolini. Insomma, è veramente imbarazzante, cioè il livello di servilismo che trasudano quelle parole, in cui di fatto lui implora una commessa pubblica da parte del regime perché aveva bisogno di soldi e aveva bisogno di una ribalta come quella che avevano alcuni suoi colleghi. Quindi c'è anche questo, cioè c'è la meschinità umana anche di grandi storici, insomma, no? E quindi che in qualche modo vedono nel regime una grande opportunità di una visibilità pubblica che naturalmente soddisfa tutta una serie di pulsioni esistenziali, evidentemente. Tutta la vasta schiera degli artisti, delle artiste, no? Che c'è una domanda in fondo. Alessia, fai tu, grazie. Grazie. Vorrei introdurre un tema un po' anomalo, il tema del populismo. Sono state elaborate tante teorie. Io credo che il populista sia colui che sente, come dire, al fiuto di quello che succede nella società, e nello stesso tempo lo manipola ai propri fini, ai propri obiettivi. Faccio un esempio, non so, Mussolini, definito da Gazzullo il capobanda, sente nell'aria nazionalismo, biennio rosso, eccetera, poi lo trasforma ai suoi obiettivi, ai suoi fini. Tutto questo ha bisogno anche di alcuni spazi. Ecco gli immensi spazi di Piazzale Venezia, ecco il contatto diretto con la folla, la famosa dichiarazione di guerra, non è altro che un dialogo tra Mussolini e folla. Lo vediamo anche qui negli ampi spazi del razionalismo, qui dietro il Monumento della Vittoria. Allora vorrei capire se questo discorso del populismo e di questo rapporto tra il capobanda e le folle abbia una radice nella romanità. Seconda considerazione, io qui parlo per esperienza personale. Quando tanti anni fa andavo a scuola, la storia romana veniva insegnata come più che il fulcro della nazione, del paese, come dire, quasi come una formula di estasi, tutto era bello, la grandezza della romanità, eccetera. Faccio un esempio, il famoso ratto delle Sabine, oggi sappiamo che era sostanzialmente uno stupro, però veniva disegnato come la nascita di Roma. Ecco, la grandezza, così come ci è stata insegnata ancora oggi, credo che nei libri di storia ci sia questo, può rappresentare, e l'avete anche già accennato, un elemento per appunto leggere il fascismo sotto questa cultura? Ma sono domande molto interessanti. Diciamo che chiaramente tutti i regimi, quindi anche naturalmente durante l'Impero Romano, hanno bisogno di una, diciamo così, di una base di consenso più ampia possibile, e quindi ci sono delle forme attraverso le quali questo consenso si crea. Però c'è una differenza fondamentale che gli strumenti di comunicazione di massa che maturano in Italia in modo molto accentuato in questi frangenti, insomma, e si cominciano a sperimentare alla fine dell'Ottocento con le prime esperienze coloniali, queste elaborazioni, diciamo così, attraverso strumenti di diffusione ampi, e poi durante il fascismo diventa molto più massiccio. Quindi è vero, ci sono le grandi adunate e ci sono poi appunto le trasmissioni radiofoniche e tutta un'altra serie di strumenti che sono a disposizione del regime. È paragonabile, diciamo così, questo rapporto diretto tra il capo banda, come definito lei, insomma, e le masse nel mondo romano? Beh, non in queste dimensioni. C'erano delle occasioni rituali in cui c'era una partecipazione popolare ampia, ma avevano, diciamo così, delle caratteristiche molto, molto diverse. E poi appunto è un mondo in cui, diciamo, la partecipazione pubblica ha un'altra, diciamo così, ha delle altre logiche, quindi ci può essere una ripresa, ma è soltanto, diciamo così, appunto una grande suggestione in fondo anche in questo caso. E per quanto riguarda l'insegnamento della storia, sì, non so, anche Federico, immagino, questo è un problema enorme, perché in effetti c'è stata per molto tempo, diciamo così, una visione in gran parte un po' edulcorata dell'esperienza romana, ma soprattutto, forse, e anche questo è un tema di cui hanno parlato grandi storici, Paul Venn e Andrea Giardina, c'è stata ed è ancora oggi un aspetto che soprattutto nella didattica della storia antica non smette di esercitare un certo fascino nelle scuole, cioè la retorica delle radici. Cioè, se tu vuoi, disperatamente vuoi cercare di convincere un ragazzino di 14 anni a seguire una lezione di storia romana a cui lui è per natura disinteressato, che cosa cerchi di fare? Cerchi di convincerlo del fatto che quello che succede nel mondo dei romani in fondo ci appartiene, perché noi siamo i discendenti diretti dei romani. E questo naturalmente è una cosa apparentemente innocua, ma molto, molto pericolosa. Molto pericolosa, perché il mondo romano, a partire dal ratto delle Sabine, che è un momento di grande violenza, ma anche un momento di fondamentalmente un momento di commistione etnica, perché Romolo e Tito Tazio fondano un popolo da due popoli, cioè i romani e i sabini fondano una popolazione che nasce come una popolazione ibrida. E quindi noi da chi discendiamo? Chi sono questi romani da cui discendiamo? Sono dei romani che sono mescolati in continuazione con i Celti, con i Galli, con i Berberi, con una pluralità di popolazioni germaniche, non germaniche, che sono venute oltre il Danubio, oltre il Reno, in processi storici enormi. Cioè è veramente un mondo meticcio quello romano, quindi non si capisce bene poi veramente, in questa retorica di una discendenza diretta, quale sia il referente originario. Federico, vuoi aggiungere qualche considerazione, magari anche battuta finale, perché dobbiamo quasi chiudere perché sono le 7 e un... C'è una domanda? Okay. Allora, magari l'ultima domanda. Lorenzo, tu hai già il microfono, perfetto. Sì, perché, no, Prima una piccolissima curiosità, avete citato De Pero e la sua lettera a Mussolini, posso dire una cosa in collegamento con Bolzano, esiste una corrispondenza di Libero Andreotti, lo scultore, con Piacentini che nel momento in cui stava costruendo il Monumento alla Vittoria, in cui si lamenta perché non lo pagano come e vorrebbe ulteriori commissioni, eccetera, eccetera. Ma questo penso che faccia parte del mondo degli artisti, soprattutto di un'arte di Stato, un'arte accademica, penso che sia abbastanza normale. E li danno? No, rimane abbastanza deluso perché nel corso del tempo si era partito da un progetto che prevedeva un totale, mi pare, di 8 statue, alla fine gli hanno fatte fare 2. Quindi, e lui con suo cognato si è lamentato molto, ma questo non c'entra. No, volevo affrontare un discorso un po' più importante, chiedere se nel libro si affronta, che ovviamente non ho letto, no, si affronta il discorso dell'odonomastica e di come il regime ha usato lo strumento dell'odonomastica, che io personalmente considero molto molto importante, avendo poi a Bolzano, e qui c'è il sindaco che può confermare, avendo proprio qui a Bolzano vissuto sulla nostra pelle quanto l'apparente banalità dei nomi delle vie sia invece fondamentale, sia invece molto molto importante, ecco. Bella domanda, chi la vuole affrontare? Paola? Allora, in realtà sì, sono io che parlo a bassa voce. Mi rifaccio un attimo alla curiosità che ha detto prima della questione delle commesse. Noi dimentichiamo che dietro questo grande mito della romanità, dietro questa propaganda, dietro questa ricerca di consenso, vi erano quasi sempre dei meccanismi molto meschini, no? Fabrizio prima parlava della miseria, delle pulsioni personali. Io sto lavorando sulla vicenda dell'obelisco Dux al Foro Mussolini a Roma, al Foro Italico a Roma, e ci sono dei documenti straordinari in archivio delle ditte di Carrara che si lamentavano in modo veramente accorato perché l'erezione dell'obelisco Dux al Foro Mussolini fu un capolavoro di conflitto di interessi, perché il conflitto di interessi, esatto, oggi ci sono dei processi se ci si arriva, all'epoca invece semplicemente veniva messo a tacere, perché era il conflitto di interessi, perché il presidente dell'Opera Nazionale Balilla, che richiede l'erezione dell'obelisco Dux, era anche il proprietario della cava di Carrara da cui viene estratto il monolite che verrà poi lavorato. Non solo, il suocero o il cognato, comunque un parente acquisito di Ricci, che è appunto il presidente dell'Opera Nazionale Balilla, aveva la ditta degli operai che lavorava a Carrara. Voi capite bene che noi vediamo oggi un manufatto sul quale ci accoriamo perché c'è ancora oggi scritto Mussolini Dux, e dietro quel manufatto ci sono delle storie che ci verrebbe da dire in modo populista, tipicamente italiane, ma forse probabilmente mondiali, di soldi, di favori personali, di favori familiari, chissà per quale motivo il povero Renato Ricci è obbligato a dare la commessa al suocero, probabilmente ci sono anche questioni legate alla moglie. Noi tendiamo a vedere la superficie delle cose e spesso dietro la superficie ci sono dei meccanismi molto più banali e molto più umani. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, la questione dell'odonomastica, non ci sono saggi specifici su questo tema, per il semplice fatto che, come ricordava prima Federico, questo volume è l'esito di un convegno che si è svolto su Col, quindi noi non abbiamo avuto proposte di relazioni specifiche su questo tema. Certo, la questione dell'odonomastica è centrale, sia nelle politiche culturali fasciste, ma soprattutto nel superamento del fascismo. Cioè, secondo me la questione dell'odonomastica è una questione che sta nella storia dell'Italia repubblicana, più che nella storia dell'Italia fascista, perché il problema è rinominare strade, piazze, vie, monumenti, in alcuni casi, oggi, e soprattutto in 80 anni d'Italia repubblicana, che sono state nominate 100 anni fa. Quindi effettivamente forse potremmo fare un seminario sull'odonomastica repubblicana, come recepisce per esempio questa esplosione di via Roma. In tutte le città d'Italia c'è una via Roma, e perché perché era obbligatorio durante il fascismo. Durante il fascismo viene fatta una circolare per cui tutte le città d'Italia, tutti i paesi d'Italia dovevano avere una via o una piazza dedicata a Roma, non perché fosse la capitale, ma perché era Roma, Roma antica. Volete dire qualcosa? Nel decennale, mi sembrano, il 32 soprattutto. Va bene, io a questo punto quasi... C'è davvero l'ultima domanda? No, non è, sì, è una domanda. Allora ci prenotiamo il prossimo intervento vostro sull'odonomastica. No, perché quella di Via Roma è interessante. Io non la non so se sono d'accordo, ma... E ci teniamo anche alla presenza di Sant'Angelo, magari riesce a venire fisicamente. Comunque... Visto che siamo alla conclusione, volevo ringraziarvi molto perché è stata una serata di grandissimo respiro. Abbiamo ascoltato tantissime cose interessanti, i nostri ospiti sono stati eccellenti e ci ha fatto molto piacere perché sono temi che vanno approfonditi anche con la lettura e questo è un compito, una missione che la biblioteca svolge con tanto impegno e dedizione. E anche l'AMPI, chiaramente le associazioni che ci stanno aiutando in questo percorso. Grazie e grazie a voi. Grazie. Grazie davvero.